romántica. Romántica, tú sei romántica. Amarte un po' di vivere nella semplicità, nella irrealtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol, come fai tu? Sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo di paradiso per me, ed io che accanto a te sono ritornato a vivere. A te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu sei la musica che ispira l'anima, sei tu il mio angolo paradiso per me. Tu sei romantica, amica delle nuvole. A te racconterò, affiderò i sogni miei, perché romantica tu sei.